Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Il cervello si rigenera anche in età adulta, la conferma arriva da uno studio dell'Università di Pisa, l'Aquila Glasgow e dell'IRCCS Neuromed di Pozzilli, che evidenzia come la formazione di nuovi neuroni in alcune aree cerebrali, come ad esempio l'ippocampo, si verifichi anche in età adulta. Commentiamo lo studio insieme al primo autore, il professor Marco Scarselli, associato di farmacologia all'Università di Pisa. Buongiorno a voi. Noi abbiamo rivisitato la letteratura scientifica e anche alcuni dei nostri lavori, per risottolineare un concetto che in ambiente scientifico è già noto da diversi anni, cioè il fatto che il nostro cervello ha questa capacità di rigenerarsi anche fino all'età adulta, tanto è vero che uno dei principi fondamentali nei nostri ospedali, nei centri di riabilitazione, dove da traumi e altro spesso per fortuna i nostri pazienti possono recuperare alcune funzioni. Questo si basa su questa grande capacità del nostro cervello, che è quella della neuroplasticità, quindi è un fenomeno noto. La cosa importante è che in questi ultimi 2 anni sono emersi degli studi che hanno confermato la presenza di questa capacità di formare nuove cellule nervose nel nostro cervello, soprattutto in alcune aree cerebrali come l'ippocampo, che ricordiamo ha una funzione importante per la memoria, per quindi ricordarci le cose passate, ma anche dell'aspetto emotivo della memoria. Quindi evidentemente per tale funzione il nostro cervello ha sempre bisogno in qualche modo di ringiovanirsi con la formazione di nuove cellule in questa area. Ma probabilmente il fenomeno si può estendere anche a altre aree cerebrali, e nel nostro studio noi abbiamo evidenziato come sia trattamenti farmacologici come l'uso degli antidepressivi, sia non farmacologici come quelli dell'attività fisica o del sonno, hanno la capacità di stimolare la formazione di queste cellule nervose con meccanismi anche diversi, e quindi questo apre anche a un razionale nella pratica clinica di poter utilizzare entrambe le terapie per cercare di migliorare alcune condizioni psichiatriche come appunto la depressione. Professor Scarselli, oltre ai trattamenti farmacologici, all'attività fisica, al sonno, ci sono altri trattamenti farmacologici e non che possono stimolare la neurogenesi? Esistono anche altri trattamenti farmacologici e non. Per esempio, a livello del trattamento farmacologici abbiamo anche un'altra categoria di farmaci che sono gli stabilizzanti dell'umore, come sali di litio, i quali hanno la capacità lo stesso di far aumentare il numero di cellule nervose a livello dell'ippocampo. E questo è importante perché potrebbe offrire il meccanismo d'azione non solo per il trattamento della depressione, ma anche del disturbo bipolare. Mentre invece per quanto riguarda trattamenti non farmacologici abbiamo anche altre tecniche, la stessa psicoterapia o la meditazione o certi tipi di dieta o anche un'attività intellettuale importante, sono tutti processi che possono stimolare la formazione di queste nuove cellule. Grazie professor Scarselli, per oggi è tutto, come sempre vi aspetto sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute di Radio 24 per le nostre video interviste. Questa settimana, come sapete, continuiamo a parlare di diabete di tipo 2 insieme a tanti esperti. Vi aspettiamo, non mancate. Per le aziende professionisti, il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di aruba.it.